siamo fuori di noi, riga. Mixtape culo, 2008 l'uscita. Ci stiamo dentro a bomba, mentre Dimmo ci gira una bomba. È la nuova puntata, bomboletta rimassicurata. Vi eravate scordato di me, culo, una cazzata. Io non ve l'ho tirato il culo, ma sono sicuro che pompo con le rime, vi giuro che vi lascio un po' tutti a digiuno. E bomboletta che è arrivato con il check in fretta per farvi il culo. Mixtape, tu non ci sei dentro perché non sai fare rap a tempo. Uomo, tu sei un fake e non ci stiamo, capiti? E bomboletta che i piatti ve l'ha già serviti. Vi siete inchinati, vi siete vestiti, voi non siete mai usciti. E soprattutto di brutto non siete miei amici. E bomboletta on stage, on the mic, suona fat hardcore perché c'ha le punchline. D'inverno io porto il giubbotto, adesso c'ho la maglietta, non faccio il tabozzo. Fra, io fumo e anche troppo. E bomboletta fra, con il suo rap io pompo questa merda di Nondo Bella e bombo clap. La dedico al mio amico Tella, al mio amico Dream, che si fuma una canna alla svelta, la giro io alla rovescia. Non c'è un cazzo, solo body che si sflescia. E tu lo sai che gira mancherò un'oretta. C'è bomboletta, io non bombo in fretta, ma se prendo pronto servo il piatto sulla tua sciacquetta. Quella è bomboletta che si infiamma. E vedo Dream in cameretta che si gira una canna. Io mi giro e vedo il volto di sua mamma. Cazzo è successo, abbiamo fatto un dramma. E bomboletta fra, non sfigura. Tu lo sai che ogni volta che fa dei live lui fa una bella figura. E ve lo giura che vi incula. Mixtape culo, ma nessuno a noi ci si incula. E nessuno vuole giurare, lui giura. Il nostro culo, fratelli, profuma. E non c'è un cazzo da fare, sporto fortuna. Se pesti la mia merda, bomboletta appare sulla luna. Non ne azzecco manco una, ma sono arrivato primo e l'ultimo sulla luna. Non c'è un cazzo, ripeto, non vedo. Io faccio abracadabra, puff, e divento cieco. E non lo sai com'è, sono svelto, io sono onesto. Sono un genovese e vi pesto. Non c'è un cazzo da fare, non ve ne presto. Di rime, di stile, col cazzo calpesto. E bomboletta rap fra, tu non puoi pompare, trema tutta la città. L'uomo è la fotta bastarda con la gente che vi bombarda. Qui non c'è un cazzo, non ci si prostra e non ci si mostra in gamba. È tutto quello che so fare. Uomo, faccio rap perché non ho un cazzo da fare. Non mi pare, io so collegare il cervello mentre inizio a parlare. Adesso chiume, fumo lo spino, passo al compare. Bomboletta scompare, era tutto uno scherzo. Adesso posso ricominciare, tu non mi puoi più fermare. Se guardo il tappeto, metto al tappeto ogni scarso che appare. E non lo sai cos'è, finisce il beat, finisce il trip. Culo mixtape per noi tre. Non c'è un cazzo, solo bomboletta, il più pazzo. Passatemi la giolla che m'ammazzo. Culo! Culo! Fa una canna fin cantieri.